Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Si chiama onorabilità e, così come indica la parola stessa, serve a indicare l'onestà e la correttezza di un'impresa. Tra i vari requisiti indispensabili per poter effettuare l'attività di trasporto merci su strada, vi è anche questo, l'onorabilità, che si traduce in pratica nel non aver avuto nessuna sentenza definitiva o condanna a pena detentiva di una certa entità, nessuna misura di sicurezza personale o sanzioni amministrative per abuso della professione e, ancora, nessuna sospensione della patente di guida. Reati penali, ma anche di natura tributaria e commerciale o contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e l'ordine pubblico, definiscono infatti il limite tra chi può svolgere questa professione e chi no, anche se non si tratta di un limite immodificabile. Una volta perso, il requisito dell'onorabilità può essere infatti riacquisito nel caso di riabilitazione, così come tale requisito può essere perso definitivamente se si commettono reati e infrazioni gravi. E proprio dall'Europa in questi giorni giunge la notizia di un nuovo giro di vite in questa direzione. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato dalla scheda iniziale, chiunque operi in maniera professionale in questo settore, il settore dei trasporti, deve rispettare una serie di requisiti indispensabili, tra cui appunto quello della onorabilità, che ne garantisce in maniera oggettiva l'integrità e l'onestà. Ne parliamo oggi con Claudio Donati, segretario generale di Assotir, a cui chiediamo innanzitutto quali sono gli altri requisiti indispensabili per poter esercitare questo tipo di professione. Gli altri tre requisiti sono, oltre alla onorabilità, la capacità professionale che deve essere dimostrata dal titolare o dal preposto, la capacità finanziaria e lo stabilimento. Questi sono i quattro requisiti essenziali per poter svolgere l'attività di autotrasportatore. Ecco, entriamo nel dettaglio di questi ulteriori requisiti, tra un po' parleremo nello specifico di quello dell'onorabilità. Cominciamo proprio dalla capacità finanziaria. Cosa significa in pratica? Ma, diciamo, la normativa europea è molto semplice, dice in poche parole che l'impresa di autotrasporto che ha un camion deve essere in grado di dimostrare una capacità finanziaria pari a 9.000 euro. E per ogni ulteriore veicolo in sua dotazione, diciamo così, deve produrre ulteriori 5.000 euro per ogni veicolo aggiunto. Questa è la capacità finanziaria, deve essere dimostrata, che in linea di massima dovrebbe essere dimostrata attraverso i dati del bilancio dell'azienda ed in via subordinata attraverso, diciamo, un'attestazione della banca, che normalmente avviene tramite fideiussione bancaria. C'è poi un altro requisito fondamentale anche sul fronte della sicurezza stradale, che è quello della capacità professionale. Cosa significa? Per svolgere questo tipo di attività occorre appunto una specifica professionalità che viene attestata e certificata attraverso un esame pubblico. Quindi l'aspirante imprenditore di autotrasporto può fare anche dei corsi che preparano all'esame e comunque deve sostenere un esame che diciamo documenta e certifica in qualche maniera la sua capacità tecnica professionale di poter condurre una attività imprenditoriale. Certo, c'è poi il requisito dello stabilimento, che credo sia riferito al luogo fisico dove ha sede l'azienda. Esattamente, siamo anche qui. La normativa europea ha voluto precisare che, parlandosi di una impresa, deve esserci un luogo fisico in cui questa impresa ha sede, ha il proprio stabilimento. Su questo, diciamo, la declinazione italiana è abbastanza elastica rispetto alla norma europea, e tuttavia, diciamo, è un elemento di recente aggiunto che diventa costitutivo per avere la presenza di una impresa di autotrasporto iscritta all'albo degli autotrasportatori. Certo. Ritorniamo al requisito della onorabilità. L'Europa ha deciso un ulteriore giro di vite sui reati che possono portare alla perdita di questo requisito dell'onorabilità. Ascoltiamo in proposito la prossima scheda. Con il regolamento UE adottato dalla Commissione lo scorso 18 marzo, si amplia la lista delle infrazioni che possono portare alla perdita del requisito di onorabilità delle imprese di autotrasporto. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2017. I gruppi di infrazioni indicate dal regolamento riguardano una serie di materie che toccano tutti i temi sensibili del settore. Dai tempi di guida e di riposo agli orari di lavoro, al trasporto di merci pericolose, all'accesso al mercato del trasporto internazionale, fino al peso e alle dimensioni dei veicoli, e così via. Per ogni infrazione riportata nella lista viene indicata sia la gravità sia la frequenza massima del ripetersi dell'evento che può portare alla perdita del requisito di onorabilità. Ecco Donati, abbiamo ascoltato cosa succede in Europa, tra l'altro si tratta di un regolamento che sarà presto applicato anche in Italia. Può farci qualche esempio dei nuovi reati previsti dalla Commissione europea? Questo nuovo regolamento fa diventare rilevanti una serie di infrazioni, e non solo reati, ma anche infrazioni ai fini della perdita dell'onorabilità, mentre la normativa precedente limitava questo ambito di infrazioni rilevanti ai fini della perdita dell'onorabilità a casi abbastanza limitati. Oggi si tratta poi di verificare per ognuna delle infrazioni il livello di gravità, ma diciamo temi come la manomissione del cronotachigrafo, il rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti possono essere rilevanti come diciamo infrazioni di regole che possono comportare la perdita dell'onorabilità, certo. Cosa che prima non era così, insomma. Noi quindi consideriamo molto positivamente questa novità. Quindi possiamo considerare questo un vero e proprio giro di vite sul discorso dell'onorabilità, che dovrebbe aumentare anche il livello di sicurezza sulle strade? Beh, non c'è dubbio, diciamo, siamo in presenza di un passaggio molto molto importante, probabilmente un salto di qualità, come lei diceva, sul terreno di avere una certificazione, un controllo comunque delle attività imprenditoriali dell'autotrasporto nel rispetto della sicurezza stradale, della circolazione e direi più in generale della legalità, perché questo tipo di normativa, di vincoli che vengono introdotti ovviamente fanno sì che l'impresa sempre più deve lavorare, operare all'interno di regole ben precise e chiare, insomma. Certo. Ecco, a questo proposito, questo controllo oggettivo, questo appunto della onorabilità, che è un controllo concreto, tangibile sulla regolarità delle imprese, è sufficiente a garantire la sicurezza sulle strade o ci sarebbe bisogno ancora di qualcos'altro? Una misura, come dire, che da sola risolve tutti i problemi, evidentemente non è di questo mondo. Io credo che sia una metodologia che viene introdotta che sicuramente, se applicata, se verrà diciamo opportunamente seguita anche a livello nazionale, produrrà degli effetti molto positivi anche sulla sicurezza, perché diciamo anche i controlli sono molto collegati alla intensità diciamo delle infrazioni che vengono riscontrate presso ogni impresa. Ci sono dei criteri di parametrazione, di misurazione, per cui le imprese che più dimostrano di essere, come dire, esposte sul versante del rischio della regolarità saranno quelle più soggette ai controlli e quindi quelle più esposte al rischio di perdere l'onorabilità. Come si collega tutto questo tema a quello del cabotaggio abusivo, soprattutto da parte di operatori stranieri? Non c'è dubbio che le due cose debbano andare di pari passo, nel senso che è giusto ed è positivo che si sia sempre più attenti sul versante del rispetto delle regole in questo campo, diciamo, finalizzate al rispetto della sicurezza, ad assicurare la sicurezza sulle strade. Dall'altro lato non dobbiamo consentire che diciamo avvengano fenomeni di concorrenza sleale. Bene, termina qui anche questa puntata di Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email container@radio24.it. Il nostro appuntamento ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.